Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud. Traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. La lanterna di Ambrosio rischiarò finalmente la porta del sepolcro che conteneva il corpo di Antonia addormentata. Aveva portato con sé una leva e una zappa, ma si rese subito conto che non ne avrebbe avuto bisogno. Il sepolcro non era chiuso e, tirato a sé il cancello che cedette immediatamente, sistemò la lanterna sul bordo e si chinò in silenzio sulla tomba. Il corpo intatto e tutto bianco di Antonia riposava tra due cadaveri in completa putrefazione, un vivo colore incarnato, annunciatore del prossimo risveglio, sembrava affiorare sulle sue guance, avvolta nel lenzuolo funebre, magra e rigida la bella, pareva sorridere ai tetri oggetti che la circondavano da ogni parte, davanti a quegli scheletri corrosi, a quei cadaveri raccapriccianti che un giorno erano certo stati radiosi di grazia e di bellezza. Ambrosio non poté fare a meno di pensare a Elvira, che ormai, per opera sua, doveva consumarsi in uguale sfacelo, e il ricordo del suo delitto gli oscurò per qualche attimo la coscienza, colmandola di foschi presentimenti. Ma la disperazione che ne derivò non servì che a rafforzare la sua decisione di raccogliere immediatamente il frutto dei suoi crimini. «È per te, mortale bellezza», mormorò percorrendo con lo sguardo il corpo di Antonia, «che mi sono reso colpevole di omicidio, e nemmeno l'immagine dell'inferno mi ha fatto indietreggiare. Niente potrà trattenermi. Prima che sorga il giorno, ho giurato che tu mi apparterrai». La sollevò dalla tomba, si sedette sul banco di pietra e, abbracciandola, spiò con impazienza i sintomi della risurrezione. Riuscì a stento a padroneggiarsi abbastanza per aspettare che essa non fosse più insensibile. La violenza dei suoi desideri era ancora cresciuta dagli ostacoli che aveva dovuto superare e dalla lunga astinenza, perché dal momento in cui aveva smesso di amarla, Matilde gli si era sempre rifiutata. «Non sono una prostituta, Ambrosio», rispondeva Matilde quando il monaco, con i sensi in fiamme, la pregava con più insistenza del solito di accordargli i suoi favori. «Mi avete ormai relegata al rango di semplice amica. È la necessità e non l'amore che vi spinge a cercarmi. Non cederò a una richiesta che offende il mio orgoglio. Priva di sfoghi e nell'impossibilità di procurarsi un piacere di cui l'abitudine aveva fatto una specie di necessità, la concupiscenza di Ambrosio precipitava nella follia. Del suo amore per Antonia non restava che una triviale attrazione che la soddisfazione avrebbe poi cancellato per sempre. Bruciava di possederla, e l'oscurità della tomba, la solitudine, la resistenza che sapeva non sarebbe mancata e che avrebbe dovuto piegare, non facevano che esasperare la veemenza del suo desiderio. Ebbe l'impressione che a poco la vita rientrasse nel corpo che riposava contro il suo. Sentì battere il cuore e il sangue scorrere di nuovo sotto le guance. Le labbra si mossero e di colpo essa aprì gli occhi, ma ancora appesantita dall'effetto del potente narcotico, le richiuse immediatamente. Ambrosio, che beveva il suo respiro, non perdeva nessuno dei suoi movimenti e, vistala interamente rinvenuta, la strinse freneticamente contro di sé e la baciò a lungo sulle labbra. La brutalità di questo atto bastò per dissipare le nebbie che pesavano ancora sulla mente di Antonia. Impacciata dalle bende che l'avvolgevano, si levò a sedere e gettò intorno un'occhiata atterrita. Gli incredibili oggetti che la circondavano da ogni parte contribuirono a confonderle le idee. Finalmente i suoi occhi si posarono sul volto del monaco. «Dove sono?» chiese bruscamente. «Chi mi ha condotto qui? Dov'è mia madre? Mi era sembrato di vederla. Un sogno atroce mi ha detto. Ma dove sono? Dove sono? Dunque, devo andarmene, non potete trattenermi qui.» Fece un nuovo sforzo per alzarsi, ma il monaco la trattenne. «Calmatevi. Meravigliosa Antonia», le sussurrò. «Nessuna violenza vi minaccia. Affidatevi alla mia protezione. Perché mi fissate in questo modo? Non mi riconoscete? Non riconoscete il vostro amico Ambrosio? Ambrosio, il mio amico? Oh sì, ora ricordo. Ma perché sono in questo luogo? E che fate voi con me? Flora, mi ha raccomandato di stare in guardia. Che cosa significano tutte queste bare, queste tombe, questi scheletri? Ho paura, Ambrosio, portatemi via. Qui tutto mi ricorda il mio incubo. Mi pareva di essere morta e distesa nella bara. Mio buon Ambrosio, portatemi via. Non volete, non volete. Non guardatemi così. Lo scintillio dei vostri occhi mi spaventa. Risparmiatemi, padre, risparmiatemi, per l'amor del cielo. Per cui questi timori, Antonia, riprese il monaco stringendosela addosso e coprendole il seno di carezze che la ragazza cercava inutilmente di evitare. Che cosa temete da me, da uno che vi adora? Che vi importa dove vi trovate? Per me questo cimitero è il tempio dell'amore. Quest'oscurità non è che l'ombra, il cui mistero avvolgerà il nostro piacere. E mentre parlava, l'abbracciava e si prendeva sul suo corpo le più oltraggiose libertà. Malgrado tutta la sua ingenuità, Antonia sentì il pericolo e si strappò dalle braccia del priore. In questo gesto le bende che l'avvolgevano caddero al suolo e, non avendo indosso nient'altro che il lenzuolo funebre, essa vi si raggomitolò dentro. «Lasciatemi, padre!» esclamò, e solo l'orrore della solitudine smorzava la sua indignazione. «Perché mi avete portato in questo luogo? Non posso e non devo restare qui un momento di più!» Il suo tono deciso lasciò di sasso il monaco, ma non produsse su di lui altro effetto che la sorpresa. Le prese le mani, la forzò a sedersi sulle sue ginocchia e, guardandola con due occhi schiumanti di lussuria, rispose: «Calmatevi, Antonia, e rendetevi conto che ogni resistenza sarebbe inutile. Non voglio nascondervi più a lungo di che fuoco io bruci per voi, per tutti. Voi siete morta, e nessuno, tranne me, a cui appartenete anima e corpo, sa dove vi troviate. Siete in mio completo potere, e ogni resistenza non servirebbe che a esasperarmi. Devo soddisfarmi o morire, ma non voglio donare il mio piacere che a voi, stupenda ragazza, adorabile Antonia. Lasciate che vi insegni le gioie che ancora ignorate, che vi faccia provare fra le mie braccia il piacere che io gusterò tra le vostre. Di tutti i suoi doni, la natura vi avrebbe rifiutato proprio il più prezioso, il sentimento della voluttà. È impossibile. Non guardatemi con questi occhi supplichevoli, interrogate la vostra bellezza, ed essa vi dirà che io sono a prova di preghiere, come potrei abbandonare questi tesori e lasciare che sia un altro a goderne questi seni che si sollevano così tondi, così pieni, così soffici. La passione del monaco si riscaldava a ogni istante che passava. Quanto ad Antonia, l'aspetto del sotterraneo, il lugubre barbaglio delle tenebre e gli oggetti contro i quali i suoi occhi si urtavano tutt'intorno non erano certo fatti per consigliarle il piacere. Pur disperando di farsi intendere, continuò a riempire il sotterraneo dei suoi urli. Poi, esausta e col fiato mozzo, si buttò in ginocchio e ricominciò a pregare e a supplicare. Il rapitore si gettò al suo fianco e l'avvinghiò a sé. Soffocò i suoi urli con i baci, le fece subire l'estremo oltraggio e, cavalcando di libertà in libertà nell'esplosione del suo desiderio, strinse e gualcì quelle membra così tenere. Senza badare ai pianti, alle grida, alle preghiere, si impadronì del suo corpo e non la abbandonò che dopo aver consumato il disonore di Antonia. La sua voluttà si era appena soddisfatta che subito ebbe orrore di se stesso e dei mezzi infami di cui si era servito. L'eccesso stesso del suo ardore libertino contribuì a dargli la nausea e una voce interiore gli sussurrò dentro quanto imperdonabile fosse il delitto che aveva appena compiuto. Si rialzò bruscamente. La donna verso la quale un attimo prima lo spingevano i suoi sensi eccitati ora non destava in lui altro sentimento che rabbia e avversione. La poveretta era svenuta prima che il suo disonore fosse consumato e non rinvenne che per constatare quanto la sua disgrazia fosse senza rimedio. Rimase distesa al suolo, imbavagliata dalla disperazione. Poi si sollevò faticosamente e si trascinò a passi malfermi verso la porta della caverna. Il suono dei suoi passi strappò il monaco al suo cupo torpore. Si staccò dalla tomba dove si era appoggiato, con gli occhi fissi sui resti putrefatti che conteneva, e inseguì la sua vittima. «Dove andate?» strillò. «Tornate subito indietro!» La sua foga fu un nuovo colpo per Antonia. «Che cos'altro volete?» disse timidamente. «Non vi basta la mia rovina? Non sono ormai perduta per sempre? La vostra crudeltà non è soddisfatta, o i miei tormenti non sono ancora finiti. Lasciatemi andare. Lasciatemi tornare a casa mia per piangere in pace la mia miseria e la mia vergogna.» «Tornare a casa vostra!» ripeté il monaco con crudele ironia. Poi a un tratto la furia lo riprese. «Che cosa? Perché voi mi denunciate pubblicamente? Perché gridiate a tutti che sono un ipocrita, un traditore, un rapitore di donne? Perché mi additiate come un mostro di crudeltà, di libertinaggio, di perfidia? No, no, no, no! So misurare la gravità delle mie colpe. Le vostre accuse sarebbero troppo giuste e i miei delitti troppo flagranti. Non uscirete di qui per raccontare a tutta Madrid che sono uno scellerato così carico di colpe da dover disperare della misericordia divina. Povera ragazza! Ormai siete condannate a restare qui con me, qui, in mezzo a queste tombe scoperchiate, a queste cupe visioni, a questi cadaveri orrendamente putrefatti. Resterete qui e sarete testimone dei miei tormenti. Chi mi ha trascinato a dei delitti il cui solo ricordo mi riempie di nausea? Fatale incantatrice, non è la tua bellezza? Non è colpa tua se mi voltolo nell'infamia? Non hai fatto di me uno spergiuro, un rapitore, un assassino? E in questo momento il tuo sguardo d'angelo non mi vieta di sperare nella misericordia divina? Quando comparirò davanti al suo tribunale, Questo sguardo basterà per dannarmi. Direte al mio giudice che eravate felice prima che io vi mettessi l'occhio addosso, che eravate pura prima che io vi sporcassi. Allora non potrò dubitare della mia eterna dannazione. Vomitò queste parole con una voce di tuono e nel parlare stringeva il braccio di Antonia fino a spezzarlo e pestava col piede il suolo con una rabbia che traboccava nella follia. Pensando che fosse impazzito, Antonia, sbigottita, si buttò in ginocchio. Sollevò verso di lui le sue mani supplicanti e la voce le morì sulle labbra, incapace di farsi parola. «Pietà, pietà!» disse in un soffio. «Zitta!» urlò il monaco, fuori di sé, e la rovesciò a terra. Poi, lasciandola, si mise a misurare a grandi passi la caverna come una belva. Che poteva fare la ragazza? Grazie a lui, essa aveva perso la pace dell'anima e il suo onore era ormai irreparabilmente danneggiato. Tutto la strappava dal mondo dei vivi e non avrebbe mai osato farcela tornare. Sentiva che se fosse riapparsa fra la gente, il suo crimine sarebbe stato scoperto e non avrebbe potuto sottrarsi alla pena. Carico di delitti com'era, la morte gli si levava davanti come uno spauracchio a due facce. Anche se avesse restituito Antonia al mondo, affrontando il rischio di una denuncia, che prospettiva miserabile si spalancava davanti alla ragazza. Non poteva sperare di sistemarsi. Sarebbe stata marchiata di infamia e condannata alla tristezza e alla solitudine fino alla fine dei suoi giorni. Stretto in questa alternativa, prese una decisione tremenda per la ragazza, ma che almeno gli dava la sicurezza di non essere scoperto. Decise di farla passare per morta. L'avrebbe tenuta prigioniera in quella tetra prigione dove sarebbe venuto a farle visita ogni giorno per portarle da mangiare e per unire le sue lacrime a quelle di lei. Era una decisione ingiusta e crudele, ma non c'era altro modo. Le si avvicinò con la faccia stravolta e la sollevò da terra. Nel prenderle la mano la sentì tremare nella sua e la lasciò andare come se avesse toccato un serpente. Quel contatto gli ripugnava, ne era attratto e insieme respinto, senza poter spiegare questa ambiguità del suo sentimento. Con voce spezzata, con tutta la dolcezza di cui era capace, storcendo gli occhi per non vederla, tanto piano che lei quasi non l'udì, cercò di consolarla di un'atrocità che non era più possibile riparare. Parlò della sincerità del suo pentimento, della gioia che avrebbe provato riscattando con altrettante gocce del suo sangue ogni lacrima che le aveva fatto versare. Disperata e avvilita, Antonia l'ascoltava stretta in un dolore senza parole. Ma quando il monaco le annunciò che sarebbe rimasta nel sotterraneo, in quel luogo d'orrore al quale preferiva la morte, si risvegliò bruscamente dalla sua insensibilità. Trascinare un'esistenza disperata in una prigione angusta e raccapricciante, senz'altro testimone che il suo rapitore, circondata da cadaveri e respirando l'esalazione pestilenziale della corruzione, non potere mai più rivedere la luce né riempirsi i polmoni del fresco alito della terra. Quest'idea le trafisse l'animo con tanta forza e la colmò di una tale angoscia che riuscì a vincere per un attimo il suo orrore per il monaco. Si buttò ancora una volta in ginocchio e chiese grazia con le parole più impressionanti e pietose che seppe trovare. Promise, se l'avesse lasciata libera, di nascondere a tutti gli oltraggi che aveva subito, di dare per la sua ricomparsa tutte le spiegazioni che lui stesso le avrebbe suggerito e perché nemmeno il più piccolo sospetto potesse cadere su di lui, propose di lasciare immediatamente Madrid. Le sue preghiere furono abbastanza forti da sconcertare il priore. Per quanto i suoi timori fossero fondati, La compassione, unita a un sincero desiderio di riparare i suoi torti, lo spinsero ad accogliere le preghiere della sua povera vittima. La sola questione che lo teneva ancora indeciso era la difficoltà di spiegare la ricomparsa di Antonia dopo che era stata pubblicamente sepolta. Stava appunto pensando al modo di superare questo ostacolo quando sentì dei passi precipitosi. La porta della caverna si aprì e Matilde si slanciò verso di lui, stravolta e senza nemmeno cercare di dissimulare la sua agitazione. Vedendo entrare un estraneo, Antonia gettò un urlo di gioia, ma la sua speranza fu di breve durata. Il falso novizio non manifestò la minima sorpresa nel trovare una donna sola con il priore in un luogo a dir poco insolito e a un'ora tanto avanzata. Non la degnò anzi di uno sguardo e... «Ambrosio!» esclamò. «Che fare? Se non troviamo un modo di domare la sommossa, siamo perduti!» Il monastero di Santa Chiara è in fiamme. La badessa è stata fatta a pezzi dalla folla e anche il convento è minacciato. Sconvolti dalle grida del popolo, i monaci vi cercano dappertutto, convinti che la vostra sola presenza basterà a ristabilire la calma e a domare lo scompiglio. Il rimedio è facile, rispose il priore. Torno alla mia cella e troverò bene una scusa per giustificare la mia assenza. Troppo tardi, incalzò Matilde. Il sotterraneo trabocca di arcieri. Lorenzo di Medina e parecchi ufficiali dell'Inquisizione percorrono in tutti i sensi le gallerie e bloccano tutti i passaggi. Fuggire significherebbe mettersi nelle loro mani. Vi interrogherebbero sui motivi che vi hanno spinto a scendere a quest'ora nel sotterraneo. Troverebbero Antonia e sarebbe la fine. Lorenzo di Medina, con degli ufficiali dell'Inquisizione che vengono a cercare qui. Cercano forse me? Nessuno sospetta ancora di me che io sappia. Matilde, parlate, rispondetemi, ve ne supplico. Se ancora non pensano a voi, lo faranno fra poco. La vostra sola speranza risiede ormai nella lontananza di questa grotta e nella difficoltà di penetrarvi. È possibile che vi passino davanti senza scorgerla e che noi possiamo restare nascosti fino a che la perquisizione sia finita. E Antonia, se gli inquisitori si avvicinano e sentono le sue grida... «Ecco di che tapparle la bocca!» strillò Matilde rabbiosamente e nello stesso istante estrasse un pugnale e si buttò sulla sua preda. «Fermatevi! Fermatevi, sciagurata!» esclamò Ambrosio togliendole l'arma di mano. «Che cosa stavate per fare? Credete che questa disgraziata non abbia già sofferto abbastanza grazie ai vostri perfidi consigli? Volesse il cielo che non li avessi mai seguiti, non vi avessi mai conosciuta!» L'occhiata che Matilde gli lanciò come tutta risposta alla sua invettiva solcò l'ombra come una saetta. «Polemica assurda!» rimbeccò con una stizza e una dignità che raggelarono per un attimo il monaco. Sentiva nel suo atteggiamento un'oscura minaccia di cui non riusciva ad afferrare il senso. «Esitate ancora a toglierle una vita che avete insozzata e che non può più esserle d'altro che di peso? E va bene, che viva pure per testimoniare della vostra follia. Andate, vi abbandono alla vostra cattiva sorte, ripudio la vostra alleanza. Chi trema davanti a un delitto tanto insignificante non merita la mia protezione. Ascoltate, ascoltate, Ambrosio, non sentite i passi degli arcieri? Vengono. La vostra rovina è certa!» Mentre diceva queste parole, il suo viso si alterò e parve al monaco che tutte le sue malvagie passioni fino ad allora contenute ne schizzassero fuori come un fiotto di sangue. Un atroce barbaglio andò a infrangervisi sopra, scoprendo ad Ambrosio uno scorcio ripugnante. «Guardate dunque gli arcieri che arrivano dalla porta che ho dimenticato di chiudere!» Un calpestio affrettato si ripercuoteva già nell'oscurità del sotterraneo. Ambrosio si precipitò verso la porta della grotta da cui dipendeva la sua salvezza. Matilde aveva davvero dimenticato di chiuderla. Ancora non vi era giunto che già Antonia l'attraversava con la rapidità di una freccia e volava verso la salvezza. Sentendo Matilde pronunciare il nome di Lorenzo, si era decisa a tentare il tutto per tutto per raggiungerlo. Attraverso la porta aperta si sentiva crescere a ogni istante il rumore dei passi degli arcieri. raccolse le sue ultime forze e, prima che Ambrosio potesse accorgersene, si slanciò verso l'uscita. Rimessosi dalla prima sorpresa, il priore si gettò all'inseguimento. Inutilmente Antonia, con tutti i muscoli tesi, raddoppiava la sua velocità. A ogni passo il nemico guadagnava terreno, sentì il trapestio dei suoi piedi, sentì sul collo il calore del suo fiato. Il monaco la raggiunse, cacciò una mano tra i boccoli dei suoi capelli sventolanti e cercò di trascinarla nella grotta. Antonia resisteva con tutte le forze, si avvinghiò con le braccia a una delle colonne che reggevano la volta e chiamò aiuto a gran voce. Inutilmente il priore tentò di farla tacere. «Aiuto!» si accaniva a gridare. «Aiuto! Aiuto! Per l'amor di Dio!» Il calpestio degli arcieri divenne ben presto un vero galoppo. Lo si sentiva crescere di intensità a ogni secondo e Ambrosio si aspettava di vedere apparire gli inquisitori da un momento all'altro. Antonia resisteva disperatamente e dovette ridurla al silenzio nel modo più tremendo e inumano. Aveva ancora in mano il pugnale di Matilde. Senza pensare quel che faceva, lo sollevò e per due volte l'affondò nel petto di Antonia. La ragazza piombò a terra con un grido soffocato. Il monaco cercò di trascinarla via, ma il suo corpo si era irrigidito contro la colonna che teneva sempre stretta fra le braccia. In quell'istante, la luce delle torce che si avvicinavano infiammò le pareti. Temendo di essere scoperto, Ambrosio fu costretto ad abbandonare la sua vittima e si lanciò verso la grotta dove aveva lasciato Matilde. Ma lo avevano scorto. Don Ramirez, che arrivò per primo sul posto, vi trovò una donna immersa nel suo sangue e un uomo in fuga che non poteva essere altri che l'assassino. Immediatamente si buttò all'inseguimento con una parte degli arcieri, mentre gli altri, rimasti con Lorenzo, facevano cerchio intorno al corpo della sconosciuta. La misero in piedi alla meglio, sostenendola fra le loro braccia. Il dolore l'aveva fatta svenire, ma poco dopo diede segno di vita. Sollevò debolmente le palpebre e, drizzando il capo, rigettò indietro la foresta di capelli biondi che fino ad allora aveva nascosto il suo volto. «Dio onnipotente! È Antonia!» urlò Lorenzo, strappandola dalle braccia degli arcieri e prendendola fra le sue. Benché guidato da una mano mal sicura, il pugnale aveva raggiunto fin troppo bene il suo scopo. Le ferite erano mortali e Antonia sentì che non si sarebbe riavuta, ma i pochi istanti che le restavano da vivere furono degli istanti di felicità. L'accoramento impresso sul volto di Lorenzo, la tempesta dei suoi lamenti, le domande angosciate che non faceva che rivolgerle sulla sua ferita, tutto la convinse senza ombra di dubbio che il suo amore le apparteneva ancora. Rifiutò di farsi trasportare fuori dal sotterraneo, temendo che ogni movimento avrebbe affrettato la sua fine, e non voleva perdere nemmeno un secondo del tempo che poteva impiegare a ricevere le prove dell'amore di Lorenzo e ad assicurarlo del suo. Gli disse che se non fosse stata disonorata, le sarebbe dispiaciuto morire. Ma nel fango e nella vergogna in cui si trovava, la morte era per lei un sollievo. Non avrebbe potuto mai diventare sua moglie e, priva di questa speranza, si rassegnava alla morte senza rimpianto. Gli fece coraggio, lo scongiurò di non abbandonarsi a un dolore inutile e gli mormorò che lui era la sola cosa che l'affliggeva di lasciare al mondo. Accrescendo più che attenuando con queste dolci parole il dolore di Lorenzo, continuò a parlargli fino all'ultimo respiro. La sua voce s'affievoliva e divenne come un soffio. Una densa nebbia annegò il suo sguardo, il cuore prese a battere a intervalli lenti e irregolari, e ogni minuto che passava sembrava portarla più vicina alla morte. Era sdraiata a terra, con la testa appoggiata in grembo a Lorenzo e le sue labbra gli bisbigliavano ancora delle parole di conforto. Fu interrotta dall'orologio del convento che lontano suonò l'ora. Subito gli occhi di Antonia si illuminarono di un fulgore celeste. Tutto il suo corpo sembrò riprendere vita e vigore. si sollevò sulle braccia del suo innamorato e... Le tre! Gridò. Vengo, madre mia! Giunse le mani e ricadde morta. Lorenzo, disperato, si gettò su di lei, inondò di lacrime il volto della sua fidanzata che pareva sorridergli al di là della vita e rifiutò di separarsi dal cadavere. Alla fine, esausto, si lasciò trascinare fuori dal sotterraneo fino a Palazzo Medina con la morte nel sangue.